Buonasera a tutti. Buonasera, si può dire, no? Buongiorno? Certo, a qualsiasi ora. A che ora va in onda? A tutte le ore. Un saluto a tutti, sono Francesco Pancani e benvenuti a Gironimo. Amiche e amici del ciclismo, degli impianti sportivi, degli impianti comunali, degli impianti di qualsiasi genere, ma soprattutto del sole, benvenuti a questa giornata di Giro d'Italia, a questa puntata di Gironimo, il podcast di Al Vento, realizzato con il supporto di Shimano e con le voci di Bidon. When the sun comes out, quando il sole esce. Oggi è il 99esimo compleanno di Marshall Allen, una tappa quasi da free jazz. La commentiamo io che sono Filippo Cautz, con me c'è Leonardo Piccione. Sì, buonasera a tutti. E c'è anche Michele Pelacci. Tappa col sole, e io sono riuscito a inzupparmi, a coprirmi di fango nel finale della tappa. Non solo per mie responsabilità, diciamo che la nostra auto si era... Stai scaricando... No, ma la responsabilità di nessuno... Cioè... Di nessuno, spieghiamo per la dinamica, no? E si era impantanata banalmente, sì, la nostra automobile, perché c'era ancora in alcuni prati del... Erano molto umidi i prati, le auto e i furgoni, che non c'era un parcheggio grande a sufficienza, per cui in questa occasione veniva usato il prato come parcheggio. Con il passare del tempo stavano pian piano scendendo di livello e infilandosi in un piccolo oceano d'erba. Questo perché il nostro furgone è appesantito da ben troppe birre, Filippo. Sì, così dice Michele Pelacci, orgoglioso del suo cappellino rosso che questa mattina ha scambiato per delle birre, ma questo è un argomento che non affronteremo in quest'oggi perché abbiamo tante cose di cui parlare. Buona parte delle cose di cui dobbiamo parlare, incredibilmente, riguardano il Giro d'Italia. Di solito parliamo di tutt'altro e ne vale la pena oggi perché abbiamo visto una gran bella tappa, no? Abbiamo visto davvero una tappa bucolica per tanti motivi, non fosse altro perché se la sono giocata due amanti della campagna degli animali, era la capretta Kim contro il cavallo Vior, quindi Thibaut Pinot e Filippo Zana, ma non anticipiamo troppi temi, subito il riassunto della tappa col nostro Michele Pelacci, prego. Tappa ad alto tasso di voluttà e gaudio. La fuga buona si forma sulla salita del Cansiglio, quando finalmente vengono lasciati andare sette corridori. Pinot, Zana, Pronsky, Frigo. Scusate. La teniamo. Approvato, via, continuiamo. Che dire? Anche perché poi c'erano un sacco di tifosi portoghesi anche oggi, per cui è in tema. Aurélien Parepentre e Barguil. Il loro vantaggio è di circa 5 minuti quando si attacca Forcella Cibiana. Dopo il Cansiglio, Pinot vince anche questo GPM e torna a vestire la maglia azzurra. Sulla salita verso la frazione di Coi rimangono Zana e Pinot in testa, mentre dietro Sepp Kuss fa un gran ritmo dopo il lavoro della Ineos e si staccano un po' tutti tra gli uomini di classifica generale. Inizialmente Rubio, Caruso, Kemna e Leknessund, infine pure Dunbar, ma soprattutto Joao Almeida. Zana batte Pinot allo sprint per la tappa, Roglic e Thomas arrivano assieme, mentre dietro si contano i danni. Aiutato da Vine, Almeida non perde tanto terreno. Ma tra i tre big, i valori sembrano incredibilmente livellati. Wow, che pathos ci ha messo Michele con questo riassunto. Forse è ispirato dalla voce che ha aperto questa puntata, che si è presentato il buon Francesco Pancani, ma insomma Michele potrebbe essere il suo erede. Chi lo sa. Intanto non aggiungerei altro, aggiungerei solo l'ordine d'arrivo al suo riassunto di tappa, perché abbiamo detto, ha vinto Filippo Zana, che ha battuto lo sprint Thibaut Pinot. Terzo è arrivato Warren Barguil a 50 secondi. Quarto, il solito, incomparabile, instancabile Derek G a 1 minuto e 03. Quinto, Aurélien Parepentre, che ha battuto nella volatina per il quinto e sesto posto Marco Frigo, compagno di squadra di G della Israel Premier Tech. Settimo è arrivato Primoz Roglic a 1 minuto e 56 da Filippo Zana. Sono arrivati insieme Roglic e ottavo Geraint Thomas. A 21 secondi da questa coppia è arrivato Joao Almeida, quindi nono nell'ordine della tappa di oggi, e decimo poi Eddie Dunbar, che invece ha perso 36 secondi dal duo Roglic-Thomas. Tra tutti gli altri cito soltanto tredicesimo Damiano Caruso, che oggi ha perso 1 minuto e 01 da Geraint Thomas e Primoz Roglic. Classifica generale è immutata per la maglia rosa, ma al secondo posto è salito Roglic, che ha scavalcato Almeida. E però non ve la leggo adesso, ve la leggiamo dopo, solo per dire che oggi è stata la giornata no o ni, come abbiamo detto ieri, per Joao Almeida. La giornata grigia, non la giornata nera, ma neanche bianco scuro. Comunque ne parliamo dopo, diamo il giusto merito ai fuggitivi, che sono stati ancora una volta premiati con la vittoria, ancora una volta protagonisti. Che bei fuggitivi che stiamo vedendo negli ultimi giorni in questo Giro d'Italia. Sì, no, non trovate? Sì, no. Oggi c'erano tutti i nomi belli, proprio quei fuggitivi che chiunque avesse vinto poi alla fine saremmo stati contenti. E siamo contenti di festeggiare la vittoria di Filippo Zana, corridore che è cresciuto in maniera esponenziale. Usare un termine matematico che ci piace. Nell'ultimo anno, non so se sia stata la vittoria al campionato nazionale che gli ha dato quella spinta definitiva, se sia stato il cambiamento di squadra. In ogni caso, probabilmente una somma di punti. Una somma di punti, forse ci farei la squadra tra i primi fattori, perché poi anche altri componenti di questa squadra stanno facendo un grande giro. Basta pensare a Eddie Dunbar, appunto, che sta lottando per la top 5, adesso è quarto in classifica generale. Alessandro De Marchi, che sta facendo un grandissimo giro e ha detto oggi è come se avessi vinto io con la vittoria di Filippo Zana. E Michael Matthews anche, che ha vinto una tappa e sta facendo un ottimo Giro d'Italia. Quindi la Jayco Alula sicuramente è una delle squadre migliori complessivamente in questo giro, insieme a mio modesto parere alla Israel Premier Tech, anche oggi grande protagonista di questa fuga. È il secondo Veneto consecutivo che vince in Veneto? Ecco, statistica che non si ripeteva da quando? Cioè, evento che non si ripeteva da quando? Non te lo so dire, ma so dirti molto che preciso. In un arrivo in salita, un italiano in maglia tricolore non vinceva da Nibali a Risul 2016. Ah. Così, e con le statistiche... Così. Mi piaceva di più quella prima, devo dire, del Veneto, la venetosità e da quante vittorie sono state venete da quando è stato fondato il Veneto. Venetosità, hai detto opposto, venetosi, sai, Veneto, una parola. Non credo, bene, hai notata tu questa cosa. No, invece la statistica su Nibali è stata fatta notare in conferenza stampa, in una domanda, che secondo me sottintendeva una prospettiva eventuale, ipotetica, che Filippo Zana possa diventare un uomo della classifica generale. Non e è vai, mai... massacriamolo sto ragazzo, no, adesso finalmente è cresciuto e vai, mettiamogli un bello zaino di pressioni così almeno lo schiacciamo di nuovo e via col prossimo. No, speriamo che non sia così. Zana però è un ragazzo del 99, quindi ha 24 anni, li ha compiuti da poco, ed è legittimo anche che si possa pensare a una prospettiva di questo tipo per lui, senza caricarlo di pressioni. Poi lui mi sembra un ragazzo che possa sostenerle bene le pressioni, perché ha una testa molto libera, molto leggera. È un ragazzo che è leggero in bicicletta e anche quando parla, quando ragiona sulla, abbiamo detto, la campagna, gli animali, quello che vuole fare. Ha detto: vorrei un giorno che l'agricoltura diventasse magari il mio primo o secondo lavoro quando smetterò di correre. Quindi è più mulo che cavallo a portare le pressioni. Potrebbe, me lo auguro, perché è un ragazzo molto, molto forte e, ripeto, senza mettergli nulla addosso, però è giusto anche farsi una domanda di questo tipo. Io non sono a prescindere contro una prospettiva più grande o più, come dire, impegnativa per questo ragazzo. Neanch'io, figuriamoci. Capisco che ha fatto molto bene in generale a un Tour de l'Avenir, Zana, peraltro con Frigo, no? Erano compagni di squadra in nazionale all'epoca, adesso sono stati rivali in questa fuga. Capisco che ha vinto per esempio corse a tappe brevi come l'Adriatica Ionica Race, però ha appena vinto una corsa, possiamo non chiedergli di spaccare il mondo per i prossimi 5 anni? Cioè, va bene anche il corridore che è per adesso, no? Super crescita, ne stavamo parlando, e se l'anno prossimo, se i prossimi 5 anni non dovesse arrivare sul podio del Giro d'Italia, saremo contenti lo stesso, perché è un ottimo corridore. È un ottimo corridore, senza dubbio, è giusto anche proiettarsi al futuro, secondo me, però rimaniamo... Posso fare un paragone infelice? Sì. Diciamo no alla cicconizzazione di Zana. Sì, può essere. Io sono d'accordo fino a un certo punto. Con tutto perché l'affetto secondo me, per Ciccone, che però credo che abbia sofferto d'accordo. Molto questa... Però sono anche ragazzi diversi, che vivono in ambienti diversi, e bisogna vedere come reagiscono alle pressioni. Per qualcuno può essere anche uno stimolo, in base al carattere che una persona ha e a come gli viene messa addosso una cosa. Ma Rimaniamo al presente, perché oggi è il momento di festeggiare quello che è stata la vittoria di tappa, grande vittoria di tappa di Zana, e c'erano delle persone coinvolte molto da vicino in questa vittoria. Noi festeggiamo sempre, ci fa piacere festeggiare. Abbiamo festeggiato al buffet prima ancora dell'arrivo della tappa, nonostante non ci fosse il vino, per cui è stato un festeggiamento prevalentemente gastronomico. Festeggiavano e parecchio i tifosi di Filippo Zana che erano sotto il podio premiazioni, e tra questi tifosi ce n'era uno inevitabilmente più tifoso degli altri. Com'è questa giornata? È il papà. Sono il papà. Si chiama? Giordano. Cosa? Non credo ci siano delle parole, ma se ci sono... È un'emozione indescrivibile. Non so cosa rispondere, perché sono molto emozionato. Una grande vittoria di sacrificio. È cresciuto tantissimo Filippo in quest'ultimo anno, due anni, è tutto grazie al suo sacrificio. Solamente al suo sacrificio. Il sacrificio che ha fatto Filippo è indescrivibile. Cioè, tanti sacrifici sono stati ripagati, perché è veramente un ragazzo serio che rispetta gli altri, è una persona umilissima, proprio come la famiglia del resto. Solo che la mamma ha un piccolo vizio, gli dice: Filippo, mi raccomando, vai piano. Ma la mamma è comprensibile, però no. È così, la mamma è sempre la madre. però il papà dice: Filippo, mi raccomando, vai forte. Speriamo che vada forte per lui. Senta Giordano, cos'è la prima cosa che dirà Filippo quando finalmente riuscite a parlarvi oggi? Ho già parlato con Filippo, l'ho abbracciato, l'ho ringraziato e gli ho detto: questi sono i frutti del tuo sacrificio. Grazie mille, buona festa. Adesso poi stasera si festeggia alla grande. Alla grandissima. Buon, godetevelo. Grazie. Mi hanno fregato sempre il solito, perché io sono quello che guida, quindi non bevo. Loro bevono. Il papà però deve bere stasera, no? Almeno, siamo in tanti. Almeno un po' di prosecchi stasera dovranno andare. Assolutamente sì. Anche perché lui è un rappresentante di vini, quindi lui come lavoro. Buono. È ben augurante per fare tante feste. Assolutamente. A partire da oggi e ancora avanti. E domani il Trecime è tutto gratis per noi domani. Tutto gratis per allora noi. Allora vengo a cercarvi domani. Assolutamente sì. Buona festa. Ciao, grazie. Ciao. La campana ufficiale del fan club di Zana? Certo. Meritata, una vittoria meritata, è stato bravissimo. La voce non c'è più, meno male che c'è la campana. Esatto. Grazie, forza Filippo! Vai! Dunque, domani alle Tre Cime di Lavaredo abbiamo un appuntamento. Non c'era il vino al buffet, ma sappiamo che c'è il vino del papà di Zana domani all'arrivo, e abbiamo di che dissetarci, diciamo, nella giornata di domani. Avrà bisogno di berci su qualcosa, forse, al termine di questa tappa, anche Thibaut Pinot? Non lo so, forse sì, forse no. Era rilassato anche oggi dopo l'arrivo. Lui davvero sta vivendo questo giro. Non ha pianto, io non l'ho visto. Nemmeno io l'ho visto, è andato via subito dopo la linea del traguardo. L'ho rivisto poi intervistato in Mix Zone. Era rilassato in volto, come è sempre stato in questo giro. Si può dire che questo giro per Thibaut Pinot è un po' un koi interrotto? Scusate. Questa va un attimo spiegata. Koi era una località. Era la salita. Sì, era la beh, salita. Non è che tutti hanno visto la tappa, c'era la località Koi. No, al di là di questo... Se tutti hanno visto la tappa, cosa gliela raccontiamo a fare ogni sera? Infatti noi raccontiamo cose che non hanno visto, punti di vista che non hanno ascoltato. Come per esempio quello che, secondo me, Pinot va festeggiato oggi, perché Pinot sta facendo un grande giro. Oggi è proprio la quintessenza di Thibaut Pinot. Il suo stile, con la maglia aperta, petto libero sulla salita, attaccando, si è contenuto, si è controllato più della tappa, dov'era la tappa con Cepeda, con il duello Crans-Montana. A Crans-Montana con Cepeda. Nonostante questo è stato battuto nuovamente allo sprint. È un grande sconfitto Pinot, è un po' parte della sua storia, gli si vuole bene anche per quello. Mi spiace, sono sempre più convinto che quel suo motto di solo la vittoria è bella sia proprio il contrario di quello che lui ha concretizzato, incarnato nella sua storia. Proprio è il contrario, direi che non solo la vittoria è bella, anche perdere come ha perso oggi è bello, il suo coinvolgimento emotivo, il suo fallire è un passo dall'obiettivo, ma continuare a riprovarci. Questo è bello, anche quando si perde. Però guardiamola in chiave utopistica, un po' alla Galeano. se solo la vittoria, se non fosse bella solo la vittoria, probabilmente Pino non l'avrebbe inseguita e cercata in maniera così verace. È il risvolto della medaglia. Io spero che lui prima della fine di questa stagione, che sarà anche la fine della sua carriera, vinca una corsa importante possibilmente. Però se il suo cruccio è lasciare un bel ricordo, lo sta lasciando un bel ricordo tipo Pino. Assolutamente, che paradosso incredibile, no? Il fatto che è un grande perdente ma ha tatuato la cosa opposta. Oggi mi chiedevo, quando si era capito che sarebbero arrivati loro due, chi dei due è più veloce? Forse nessuno dei due lo era. Nessuno dei due, nessuno dei due è più veloce dell'altro. La volata di Schrödinger. Esatto. Incredibilmente Pino ha perso ancora. Che dire? È Pinot, ha perso alla Pinot, ovvero dando spettacolo, attaccando. Ma posso dire, visto che è apparso Daniel Fribe qui dietro di noi. Sì, perché non abbiamo detto dove siamo. Noi siamo in una serra, praticamente. Siamo nell'atrio di ingresso del comune di Val di Zoldo. Ma praticamente sono due porte vetri. Noi siamo in mezzo tra queste due porte vetri. Che è bello perché fa un bel caldino. Adesso è scesa la temperatura fuori. Siamo seduti sullo zerbino. E basta, niente, no, ho citato Daniel perché è apparso e perché mi ha fatto notare una cosa durante la tappa, mentre guardavamo sotto il gazebo, che se avesse vinto G oggi, Derek G, che poi è arrivato, ricordatemi, aiutatemi, quarto, è arrivato, sì, quarto dietro Barguil, avrebbe vinto un Birdwatcher accanto al Monte Civetta, e sarebbe stato bellissimo, però non ha vinto, grande prestazione comunque. E un saluto ai nostri amici del Cycling Podcast. Ma torniamo immediatamente a Pinot, perché Filippo ha incontrato un suo compagno di squadra. E che compagno? È compagno, già maglia rosa in questo giro, l'ammiraglio Bruno Armirail, che si è comportato molto bene anche oggi. Anche oggi la maglia rosa ha fatto benissimo, perché anche se non deve più difenderla, sta reggendo. È ancora undicesimo in classifica generale. Forse ha questo sogno di centrare la top 10. E fatto sta che l'ho incontrato sulla linea del traguardo e gli ho chiesto qualcosa sulla tappa di oggi, soprattutto su Thibaut Pinot. Thibaut, c'est encore deuxième, vous courez toujours avec beaucoup de panache, mais cette victoire, elle n'arrive pas. Bah ouais, elle n'arrive pas la victoire, dommage. Je pense qu'il aura beaucoup tenté, Thibaut, et après je sais pas du tout comment ça s'est passé, s'il a attaqué plusieurs fois ou quoi. J'ai pas vu, donc je me doute qu'il a attaqué. Comme toujours. Voilà, comme toujours, ouais. Voilà, après peut-être qu'il est trop généreux aussi dans l'effort et je sais pas du tout, je lui en parlerai, on en parlera peut-être ce soir un petit peu, mais je pense qu'il a beaucoup de déceptions et vu que c'est son dernier Giro en plus, il aurait aimé la victoire. Ouais. Ces deux maillots, ton rose et la maillot de grimpeur de Thibaut, sont déjà une victoire pour vous assez gros, non? Bah, personnellement pour moi, oui, le maillot rose, c'est sûr que c'était quelque chose d'exceptionnel. Après, voilà, pour l'équipe c'est bien, mais l'équipe voulait une victoire c'est surtout personnellement pour Thibaut en fait. Pour Thibaut qui, vu que c'est son dernier Giro, il voulait gagner quoi. Où est ton vélo rose? Je sais pas, dans le camion sûrement. Tu vas le garder chez ta maison? Non, je peux pas, l'équipe ne veut pas que je le garde parce que voilà, je sais pas trop, mais bon, je peux pas le garder. Je pense que je vais peut-être demander à la Pierre s'ils peuvent m'en refaire un aussi. C'est quelque chose d'exceptionnel et ce sera un souvenir à vie, donc ouais, j'aimerais bien en avoir un quand même à la maison, il était quand même magnifique. Merci beaucoup et congratulations pour ton Giro. Merci à vous. Scusandomi sempre con l'intera Francia per il mio francese, all'ammiraglio Armirail ho chiesto, ho fatto notare Thibaut nuovamente secondo, loro corrono sempre abbastanza da protagonisti, ma la vittoria non ne vuole sapere di arrivare. E Armirail dice già, è un peccato che non arrivi, penso che ci abbia provato parecchio, Thibaut. Non ho visto cosa è successo, ma non dubito che abbia attaccato come sempre. Può darsi che sia troppo generoso quando è forte. Non so come starà adesso, perché chiaramente non si erano ancora incontrati, ne parleremo stasera, ma penso che sarà molto deluso, perché il suo ultimo giro egli sarebbe piaciuto molto vincere. Gli ho chiesto se almeno le due maglie che si porteranno a casa, la sua rosa transitoria e quella azzurra di Pinot, che potrebbe anche diventare definitiva, rappresentino già almeno una bella vittoria. Lui dice, personalmente per me sì, la maglia rosa è qualcosa di eccezionale. Per la squadra va bene, ma la squadra voleva una vittoria ed è soprattutto una questione personale per Thibaut, che al suo ultimo giro e voleva vincere. E infine, curiosità, gli ho chiesto dov'è finita la sua bicicletta rosa di cui tanto si è parlato nei giorni in cui indossava la maglia rosa. Lui mi ha detto, non lo so, penso che sia sul camion. Gli piacerebbe conservarla, dice, ma non posso, la squadra non vuole e non so bene perché. Però ho chiesto al fornitore se me ne fa una uguale, perché è una cosa eccezionale, un ricordo per tutta la vita e sarebbe bello averla in casa. Ah, giustamente, non gli hai chiesto però che fine ha fatto il bus rosa della Groupama, forse Michele no, non gliel'ho chiesto perché vedevo Michele vicino, magari gliel'avrebbe chiesto lui. A proposito di mezzi di trasporto però, non so se avete notato, io lo faccio solo ora, c'è una gondola gigante qua fuori. Ma come hai fatto a non notarla? Occupa il 99% dello spazio di questa stanza. Mi chiedo perché ci sia una gondola in Val di Zoldo. C'è un cartello esplicativo all'ingresso, sì, che non hai letto. Sì. Ma vado a leggerlo. Sai che io, come i giovani, leggiamo solo i titoli, leggiamo, no? I quadratini, i QR code. Siamo in Veneto, ci sta che ci sia una gondola. Ci fosse stato un trullo mi sarei sorpreso un po' di più, ma c'è una gondola, siamo in Veneto. Vabbè, andiamo avanti. Classifica generale, aggiornata, perché sono cambiate alcune cose. Non la maglia rosa, che è sempre Geraint Thomas, adesso ha 29 secondi di vantaggio su Roglic, che sono gli stessi che aveva ieri, però sono diventati 39 i secondi di vantaggio che adesso Thomas ha su Joao Almeida, che è terzo. Quarto è salito Eddie Dunbar di una posizione a 3 minuti e 39, quindi ben oltre i 3 minuti lo svantaggio. E quinto è sceso di una posizione Damiano Caruso a 3,51. Sesto Lennard Kemna a 4,27. Settimo sale di 6 posizioni appunto Thibaut Pinot con 4 minuti e 43 di ritardo da Thomas. A seguire ottavo Leknessund, nono Timen Aresman e decimo Laurence De Plus, undicesimo appunto Bruno Armiragli. Cosa dire della maglia rosa o di quello che è stato questo confronto tra Thomas e Roglic? Ancora una volta coppie, una coppia in cui l'elemento fisso è Thomas e l'altro è variabile, era stato sul bondone Almeida, oggi è stato Roglic. Distacchi quasi simili che queste coppie hanno rifilato al terzo escluso. Oggi Almeida ha perso 21 secondi, che sono meno dei secondi persi da Roglic 2 giorni fa, però sono comunque un segnale non positivo per Joao Almeida e sono invece un segnale, secondo me, molto positivo per Thomas e decisamente buono per Roglic in vista della tappa di domani. Peraltro, a proposito di parallelismi, il terzo dei tre che è rimasto indietro, di nuovo è stato supportato in modo importante da un compagno di squadra. Era Kuss con Roglic e oggi Vine con Almeida. Secondo me Thomas e Roglic hanno avuto qualcosa in più oggi, è evidente. Però soprattutto Roglic, mi sarei aspettato un attacco, un affondo migliore sull'ultima salita, sull'ultimo zampellotto verso Palla Favera. Invece forse no. Beh, però è Roglic che ha fatto esplodere il gruppetto, cioè ha voglia ad aspettarti un affondo. Quanti affondi vuoi? È vero che ci stava affondando il furgone nell'erba umida del parcheggio del Palafavera, ma cioè, mi sembra che Roglic oggi abbia fatto vedere che la gamba c'è, che l'intenzione c'è di fare male a questo Giro d'Italia. Si è mosso anche da più lontano rispetto al suo solito. E l'affondo ha fatto quello che aveva nelle gambe. Può anche darsi che ci sia anche una piccola componente di risparmio comprensibile visti i 2 giorni che li aspettano. Però io oggi ho visto proprio un bel Roglic che mi ha sorpreso. Non mi aspettavo di trovare un Roglic così pimpante dopo la giornata dell'altro giorno. Thomas a me sembrava sempre bruttino in faccia, invece era sempre lì assolutamente in controllo. Possiamo dirlo? Sì, abbastanza, anche perché, per esempio, Lorenz De Plus, noto come De Pluski, ha tirato tantissimo anche oggi, quasi tutta Forcella Cibiana e oltre. Aresman, molto solido anche oggi, sono entrambi in top 10 in generale. Thomas ha molte armi ancora, forse però Roglic ha un game breaker, come dicono su FIFA Street. E che non so cosa sia. Dopo te lo spiego. Okay. Se lo usa sulle tre cime ci sarà da divertirsi. Sì, può essere. Di Thomas io sottolineo solo una mossa che ha fatto oggi, poi un'altra ne parliamo dopo, che è stata quella di prendere lui in mano la corsa nel momento in cui Almeida si stava riportando sotto loro due, perché a un certo punto Almeida è arrivato veramente vicino ai due, ha perso subito 20 secondi, poi si è riavvicinato e poi ha riperso quei 20 secondi, dopo di Almeida magari ne parliamo un attimo. In quel momento Roglic, che stava tirando dall'inizio, perché Roglic che aveva mosso l'attacco e ha tirato, in quel momento Thomas ha detto no, io Almeida non voglio che rientri, e lì ha riaperto il gas. Ha fatto la stessa identica cosa che aveva fatto a parti invertite con Almeida quando Roglic stava per rientrare. Oggi è successa però un'altra cosa che ha impedito a Almeida di rientrare, ed è la curva sbagliata da Vine in discesa, perché proprio nel momento in cui Vine stava riportando sotto Almeida ha preso male, larga, una curva in discesa, si è dovuto, non è caduto ma si è fermato e ha rallentato e ha impedito proprio in quel momento ad Almeida di rientrare. E forse questo distacco finale di Almeida si deve sia allo stesso modo al lavoro, all'intuizione ancora una volta di Thomas e a questo errore in discesa di Vine, che al di là di questo invece era stato perfetto fino a quel momento. Sì, nulla mi toglie dalla testa la certezza che se si fosse chiamato JJ Vine e non J Vine, quella curva non l'avrebbe sbagliata. Fatto. Ne sono praticamente certo. Su Thomas io l'ho osservato molto quando è entrato nel furgoncino dove si teneva la conferenza stampa, perché è arrivato più o meno contemporaneamente a Filippo Zana, leggermente dopo Filippo Zana, per cui Filippo Zana ha iniziato e in quei casi la maglia rosa si siede e aspetta, non è che ha molte possibilità. Figuriamoci se si siede e aspetta quando c'è uno come Zana che ha fatto la vittoria della vita e aveva molta molta voglia di parlare, quindi l'attesa rischia di diventare anche un po' lunga, poi non è stata lunghissima. Ecco, mi sembrava veramente, non so dove trovare il termine tecnico, scazzato di dover stare lì ad aspettare. Avrebbe voluto andarsene prima che poteva e invece è dovuto restare lì e atteso. Ma io non credo di aver notato questo sentimento da parte sua. È il suo compleanno, oggi compie 37 anni. Aveva ricevuto, credo, in dono dalla TV gallese queste gallette. Gallette si chiamano così perché vengono dal Galles. No, evitiamo, ma queste Welsh cakes che abbiamo visto poggiate sul tavolo della conferenza stampa, che sono tipo gli scones inglesi, quindi queste, questo sì, pane dolce. Ce l'ha spiegato lui. Sì, l'ha spiegato lui, lo scone, sono anche molto buone. Sono andato a vedere su Wikipedia, lo scone sono dei dolci da tè, dalla pasta simile alla brioche ma meno dolci. Sì, sì, ma sono buoni, non hai mai mangiato uno scone? Mai mangiato uno scone, okay. Lui me l'ha chiesto, sono tipo gli scone, li conosci? Gli ho detto no, okay. mi dispiace. E poi ha spiegato queste Welsh cake, non vi spiego la differenza, comunque una differenza c'è, su Wikipedia trovate tutto. Alla fine di questa sua spiegazione ha detto: sono molto buoni, dovresti provarli. Per cui domani ci però tocca cercare. Non li ha offerti. Non li ha offerti, no, ma ne aveva pochi e se ne era già mangiati un bel pezzo. E quindi buon compleanno a Geraint Thomas, 37esimo compleanno in maglia rosa, e compleanno all'insegna del controllo, possiamo dire. Anzi, userei un altro verbo, che è un verbo che lui sta usando molto in questo giro, che è adapt, perché lui si sta adattando a tutte le circostanze, perché appunto cambiano gli avversari, cambiano i tipi di salite. Oggi era una tappa più a strappi, forse anche il motivo per cui uno come Kuss è riuscito a fare la differenza oggi, e Roglic si è adattato magnificamente allo stile e al lavoro di Kuss. Oggi molto meno Almeida, perché Almeida soffre proprio per sue caratteristiche le salite che procedono con gradienti diversi e con andature diverse. Non era la tappa di Almeida, era nell'ordine delle cose che oggi perdesse qualcosina, si è difeso bene. Thomas è quello che appunto si adatta a tutte le condizioni e secondo me è un vantaggio enorme anche rispetto a quello che succederà domani. Si è detto molto sorpreso delle celebrazioni del suo compleanno, ha detto che un sacco di persone del pubblico gli gridavano auguri, in italiano l'ha detto anche, molto felice di questa cosa, giustamente, perché è sempre bello quando ti fanno gli auguri. Ha usato Leo un verbo che è adattarsi per Geraint Thomas, io uso non un aggettivo, sono tre parole, non so come definirle. Cuore, sole, amore. Non quelle tre parole, ma una c'è, a cuor leggero. Ha detto Geraint Thomas: io ho 37 anni, dovrei essere in spiaggia anziché qua. E in effetti il suo nome, dall'inglese Geraint, no? Gerasimo, lo conosciamo molto bene. Geronzio, Calogero o Gerasimo in italiano, deriva dal nome latino Gerontius, forse basato sul termine greco antico Geron, ovvero uomo vecchio. Auguri per i tuoi 37 anni. Una cosa. Pensa che io ne ho 44, sì, quasi 45, dovrei stare in spiaggia pure io. Ti piacerebbe a te, vero? Tra l'altro il mio nome è Filippo, invece, sì, che è lo stesso nome del vincitore di tappa e che non a caso vuol dire amico dei cavalli. Ah, perfetto, perfetto. Sapete, ha preso l'iniziativa, insomma, la Jumbo Visma di Roglic, dopo che ha lavorato molto la Sky, e l'ha presa con la Sky. La Sky è andata, sì. Beh, ma è sempre con noi. Kuss è stato fondamentale oggi, no, per la Jumbo-Visma, e ha detto, ha preso un caffè Roglic, forse abbiamo preso tutti un caffè quando siamo stati un po' indietro nel gruppo, poi siamo tornati davanti e Primoz si stacca, diceva qualcuno nel gruppo, invece no, ha detto Kuss, eravamo lì vigili, solo aspettavamo di aggredire la tappa, ecco. Si stavano rilassando a fondo gruppo, diciamo. Esatto, ci sta anche ogni tanto, no? Chi non si rilassa mai è Joao Almeida, che riesce sempre a resistere, resistere, resistere, come diceva un VIP della politica italiana, e oggi ha fatto un numero di almeidismo come solo Almeida può fare. Cioè, veramente quel distacco che lo prende subito e poi non lo molla. Noi ci dicevamo a 20 secondi, arriverà con 20 secondi, ci dicevamo quando eravamo lì... ad aspettarlo. Se due giorni fa era stato un Almeida in versione inedita, oggi abbiamo rivisto l'Almeida solito, tra virgolette, che è un bel vedere dal mio punto di vista, perché a me esalta vedere queste azioni di resistenza e di testardaggine, come dicevamo l'altro giorno, di Almeida, che siano avanti o dietro i migliori cambia poco, certo per lui cambia, per la classifica generale cambia non poco. Abbiamo citato un suo compagno di squadra importante, che ha fatto delle cose buone, anche una piccola meno buona. Ha fatto anche cose buone. Ha fatto anche cose buone e salutava sempre Jay Vine. E non so se ha salutato Michele stamattina quando l'ha intervistato. E quindi andiamo a sentire cosa ti ha detto prima di fare quello che ha fatto oggi per Almeida. Let's begin with the most basic question ever. Name, surname, team. Yep, Jay Vine for UAE Team Emirates. Is it right to say that in this Grand Tour you've struggled a bit with rain and cold? Yes. Why, according to you? And you said that your legs were kind of freezed down the Sempione, for example. Yes. It's just been really cold. I got sick and been on antibiotics, and yeah, it just not very been the best weather for me. Do you guys have a plan for today or tomorrow as well? No, I got no idea what we're doing. We've got a plan. Plan is to try and help Joao as much as possible. He's our leader, so we'll give it our best shot there. Have a good one. Thank you. Dopo essersi presentato, Vine risponde semplicemente con un sì, quando gli chiedo se è vero che ha faticato a causa di tutto il freddo e la pioggia presi finora, poi gli ho chiesto perché, e mi ha risposto, mettendosi un po' a ridere, perché è stato molto freddo, mi sono ammalato e ho fatto un periodo sotto antibiotico, non è stato il meteo migliore per me. Infine gli ho chiesto se la squadra aveva piani per oggi e se ne ha per domani. All'inizio dice che no, non ho idea di cosa faremo nei due giorni finali in linea. Certo, abbiamo un piano che è aiutare Joao il più possibile e dargli le migliori possibilità per vincere. Oggi, col sole, direi che Vine è riuscito ad aiutare alla grandissima il suo capitano. Bene, abbiamo parlato a lungo noi di questa tappa, c'è chi ne ha parlato molto più a lungo, c'è chi sta parlando ore e ore ogni giorno, tutti i giorni. Se le nostre voci le avete conosciute molto bene in queste settimane, figuriamoci la voce che vi facciamo sentire adesso, perché mentre eravamo lì, nel parcheggio, che cercavamo dei fazzolettini per ripulire Leonardo, che si era preso una spalata di fango addosso, abbiamo visto passare l'inimitabile Francesco Pancani e gli abbiamo chiesto se si fermava qualche minuto a chiacchierare con noi su questo Giro d'Italia e non solo. E si è fermato e ha risposto anche a un paio di mie domande senza ridermi in faccia, il che dice molto su quanto sia gentile e simpatico Francesco Pancani. Senti, come sta andando questo giro, visto dalla Geronimo? Ma l'ha creata Rizzato? Perché questa mi sembra una battuta. No, Geronimo l'abbiamo creato noi, ma Rizzato... Ma avete sentito anche Rizzato? Vi siete consultati con Rizzato, diciamo la verità. Siamo usciti a cena con lui l'altra sera, ma... In bocca al lupo. Ti sei trovato nella condizione complicata di dover commentare una prima parte di giro in cui c'era veramente poco da dire, e adesso invece di dover commentare una corsa che si è accesa? Ma guarda, a parte gli scherzi, secondo me non è stata neanche brutta la prima parte del Giro d'Italia, perché comunque quando guardi una corsa di ciclismo qualcosa da dire c'è sempre, soprattutto in una corsa a tappe dove insomma devi anche vivere la giornata in prospettiva di quelle che saranno poi le giornate successive. Io l'unica tappa che veramente mi sono annoiato e che non ho condiviso l'atteggiamento dei corridori è stata la tappa quando sono andati in fuga, che poi non sono andati in fuga, si sono trovati lì per sbaglio i due della Corratex e l'Italia. Quella è stata veramente l'unica giornata in cui ho detto no, via ragazzi, così non si può fare, perché insomma è vero che era una tappa che sarebbe terminata con una volata, però insomma io credo che ci sia anche modo e modo di gestire certe giornate. Quell'atteggiamento lì da parte del gruppo non mi è piaciuto per niente, fermo restando che insomma chi mi segue ormai da diversi anni lo sa che io ho sempre il massimo rispetto dei corridori, ma massimo rispetto dei corridori, però ecco in quel caso lì aspetta un quarto d'ora prima di mandare via la fuga, non così al primo metro due della stessa squadra. Però quello è stato l'unico giorno, ti dico la verità, grande attesa anche su campo Imperatore, però poi guardando l'altimetria, guardando com'era il percorso, cioè che cosa, non sarebbe successo comunque niente. Quindi insomma grazie ai fuggitivi, perché comunque i fuggitivi, aspetta perché sta passando Stefano Rizzato. Certo, non abbiamo vissuto l'emozione di questi giorni, però grazie ai fuggitivi, secondo me ci siamo comunque divertiti. Senti, i prossimi due giorni, tu cosa ti aspetti? Ciao, Stefano. Ciao, Rizzo. Che Rizzato mi paghi almeno una merenda, non dico la cena, ma una merenda me l'aspetto. Che Velasco vada in fuga. Perché non so come mai ci sono questi tifosi, cioè Velasco c'ha un sacco di tifosi, tra l'altro. Beh, Velasco è simpatico. Insomma, Madonna, è simpaticissimo, poi è un ragazzo anche toscano, di nascita almeno, poi mi ricorda i miei trascorsi pallavolistici, quindi insomma Velasco è un corridore che seguo sempre con affetto. Però in fuga è dura Velasco. In fuga è dura, sì. Beh, almeno la crono la fa da solo, quantomeno, come infatti, se fosse in fuga solitaria. E noi metteremo la moto di Rizzato su Velasco nella cronometro del Monte Lussari. No, cosa mi aspetto? Mi aspetto domani grande spettacolo, secondo me domani non c'è spazio per la fuga e secondo me domani... Neanche di Velasco, no. No, e domani secondo me c'è la sfida diretta tra gli uomini di classifica. A te ne piace uno in particolare? So che non si dovrebbe dire o chiedere. Ma guarda, ti dico la verità, mi piacciono tutti e tre. Mi piacciono tutti e tre perché secondo me fare un pronostico adesso è garanzia di fare una figuruccia. E aspetta, chi è Rizzato? Siamo, no, che devi andare a casa. Petacchi, aspetta. Scusate un attimo. Peta, arrivo, un attimo, arrivo. A questo punto chiamiamo Ettore, così abbiamo fatto tutta la squadra e abbiamo... Ah, Ettore, guarda, sarà lì che mangia il gelato. Martini è qua, per è cui... dalle tre che mangia il gelato, Ettore, quindi insomma, stasera sicuramente non cena. Quindi. E no, credo che fare un pronostico ora sia, a parte gli scherzi, impossibile, perché l'altro giorno tutti, oh, Roglic, ragazzi, ma Roglic ha perso 20 secondi, a 25 secondi, cioè un attimo, e poi Almeida lo vedo bene, sta seduta, è fresco, e oggi 20 secondi, 21 li ha presi lui. Quindi se dovessimo chiudere il cerchio, domani 20 secondi li prende Geraint Thomas, che invece forse anche facendo sempre la pista e mi ricordo i suoi trascorsi su pista, e quindi ecco, se devo avere una simpatia particolare non ce l'ho per nessuno dei tre, se proprio però devo scegliere, scelgo Geraint Thomas per il suo passato su pista. Grazie mille. Grazie e congratulazioni, perché state facendo un lavoro straordinario. Ve l'avranno già detto, però ve lo diciamo anche noi. Bene, e noi le prendiamo sempre molto volentieri i complimenti. Grazie a voi. Buona discesa. Buon giro. Ciao ragazzi. Ciao Francesco, grazie. Benvenuti al nostro consueto angolo del libro. Oggi siamo in compagnia di Gigio Frandelli, che ci parlerà del suo nuovo libro 101 cose da non fare in bicicletta. Ben trovato Gigio. Salve a tutti. Ci parli del suo nuovo libro? Beh, il libro vuole essere una guida per tutti gli appassionati di ciclismo, una sorta di consiglio, anzi, 101 consigli su cose da non fare in bicicletta. Molto interessante, ma può svelarci qualche consiglio in anteprima? Sì, certo. Il consiglio numero 66 dice: meglio evitare di compilare la dichiarazione dei redditi in bicicletta. Qualcuno l'ha fatto, Non la ricorda come una bella esperienza. Un consiglio davvero molto saggio. Oppure il consiglio numero 91 dice: per nessun motivo fare il cambio di stagione dell'armadio in bicicletta. Beh, questo mi sembra ovvio e anche di difficile realizzazione. Le assicuro che qualcuno l'ha fatto e il disastro è stato enorme, ma gli è servito da lezione e grazie anche al mio libro non lo fa più. Ma il suo libro è una guida, un faro. Già, le svelo anche un altro consiglio, poi mi fermo perché non vorrei dire troppo e non voglio la gente a comprare il libro, sai, ho famiglia, Ma certo, capisco perfettamente. E quindi l'ultimo consiglio? Il consiglio numero 3 dice: non scrivete mai un libro mentre andate in bicicletta. E questo, lo confesso, è un po' un'esperienza personale. Beh, va bene, allora non ci resta che darvi appuntamento in libreria con 101 cose da non fare in bicicletta di Gigio Frandelli. Al prossimo libro! Non ho capito se... cioè... ci sono molte solo cose, ci sono... No, ne ho capite tante, mi sembrano tutte molto condivisibili. Cioè, sulle pagine c'è scritto solo non fare questa cosa o poi viene dettagliato e spiegato? Perché a quel punto diventa molto interessante. Se c'è la spiegazione, cioè, tutte le ragioni per cui non fare il cambio di stagione dell'armadio mentre si va in bicicletta, ce ne sono tante. Ma Gigio Frambelli è famoso per queste sue istruzioni. Diceva prima Michele di Cus, che ha detto: io e Roglic siamo andati a berci un caffè in fondo al gruppo. Non è che sono andati davvero, cioè sono andati in fondo al gruppo chiacchierando un po', volevano bersi un caffè, solo che Roglic ha letto il libro di Gigio Frambelli e quindi ha detto a Cus: no, non bisogna bersi un caffè mentre si va in bicicletta. Come Gigio Frambelli poi influisce sul risultato finale di una corsa di ciclismo. E vabbè, e cosa che non bisognerebbe fare in bicicletta è far saltare la catena della propria bici quando stai lanciando uno sprint, per esempio. Certo, non è come dire, una cosa che uno fa volontariamente. È successo ieri, ricorderete. Chi riesce a farlo volontariamente, chapeau. Sì, è successo ieri involontariamente a Arne Marit della Intermarché, un altro ragazzo di 24 anni che era in quinta posizione alla ruota di Alberto Dainese, stava lanciando il suo sprint quando gli è saltata la catena, e è arrivato dodicesimo poi al traguardo, molto affranto, diciamo così, per questa occasione persa. Poi l'abbraccio con la sua fidanzata l'ha un po' risollevato, però comunque stamattina volevamo andare a parlare con lui perché è stato uno dei momenti emotivamente più forti di questa terza settimana del Giro finora, e questa è un po' la prima parte della chiacchierata con Arne Marit di questa mattina. Oh, Arne Marit, how are you one day after what happened yesterday? Yes, the disappointment is of course still there, but yeah, now I have to focus on a new stage. Today is another day, so the focus is now I'm reaching Rome, and maybe I can get a new opportunity there. Yeah. We saw you very emotional after that. Yeah, it was already a hard year for me. 2 days before the rest day, I had a fever also. I felt really bad. But I had a whole time in my mind, stage 17. I can do a good result there. Just keep on fighting, you never know. If you reach a rest day, you can maybe recover and then do good sprints. And actually, surprisingly well, I felt really good the last 2 days. So. Yeah, it was also a bit of emotions. We are already day 18, so maybe also a bit tired, and the emotions came actually really fast, because yeah, I really believed I could win this stage, and it felt like an opportunity who is maybe never coming back, and yeah. Allora, come stai un giorno dopo quello che è successo ieri? E Arne ha risposto: beh, la delusione c'è ancora, però adesso devo concentrarmi, ha detto focussarmi in inglese, non in italiano, su una nuova tappa e sul raggiungere Roma, perché magari lì avrò una nuova opportunità. E io gli ho detto: ti abbiamo visto molto provato emotivamente ieri. E lui ha detto: sì, è stato un giro difficile per me. Prima del giorno di riposo, del secondo giorno di riposo, ho anche avuto la febbre, non sono stato per niente bene. E vedete come ritornano queste esperienze con tutti i corridori, o quasi tutti, con cui abbiamo parlato in questi giorni, del non stare bene in questo giro. Però, ha continuato lui, avevo in mente la tappa numero 17 di questo giro da molto tempo, sapevo che potevo far bene, per questo ho continuato a lottare per raggiungere il secondo giorno di riposo, e chissà, magari avrei recuperato. Effettivamente, con mia sorpresa, negli ultimi 2 giorni sono stato benissimo. Adesso siamo alla tappa numero 18, sono stanco, e anche per questo le emozioni ieri sono emerse così veloci, improvvise. Ci credevo davvero a vincere, e ho avuto la sensazione di un'opportunità che potrebbe non tornare mai più. You're still very young, you will have opportunities, you know. Yeah, I know, they always say it. It was the same with Florian Vermees. He's now second in Paris-Roubaix, but now he's to be already 3 years later and I still didn't win Paris-Roubaix, so I'm convinced that you have to take every chance which comes on your way, and yeah, at this moment I'm quite disappointed, but yeah, I was there in the final. I showed that I have the legs to do good sprints, so I have to take this with me. E io qui gli ho detto, ma come, sei molto giovane, ne avrai di opportunità. E qui una risposta molto interessante, secondo me, da parte di Marit. Ha detto, sì, lo so, si dice sempre così, dicevano così anche a Florian Vermeers, quando è arrivato secondo alla Roubaix. E adesso sono passati 3 anni e lui ancora non l'ha vinta quella corsa. Io sono convinto che ogni opportunità che ti capita nella vita vada colta subito. E per questo sono ancora deluso rispetto a ieri. A ogni modo, ho dimostrato di avere le gambe per lottare in uno sprint del genere e mi porto a casa questo, da questa tappa. Just one last question. This is the last Giro of Mark Cavendish. Yeah, indeed. And yeah, is he a reference for you, inspiration? yeah, of course. We touched the ground already together. So actually, we spoke already together. But also, when I was still young, I was looking to the Grand Tours, Tour de France, and Kev was winning 4 or 5 stages in one Grand Tour. And yeah, it was really a big inspiration to me. Yeah, and I still look up to him. I have lots of respect, also in Gruppetto. Yeah, he's a bit of the leader. He's, yeah, actually a big example for me, and it's actually an honor that I can race with him in his last Grand Tour this year. So, who was your idol growing up in cycling? First of all, it was Tom Boonen, and second, yeah, it was Mark Cavendish. So, yeah, he's a real inspiration to me, and. Yeah, I still look up to him. Even now, he's not a teammate, but rival. Rival, yes, yeah, this word. Yeah, indeed. Yeah. Arne, grazie mille. See you in Rome, and good luck for the mountains that are coming. Thank you. Cheers. Ciao, Arne. Grazie. L'ultima domanda di questa chiacchierata con Arne Marit è su Mark Cavendish, di cui non abbiamo parlato negli ultimi giorni dopo l'annuncio del suo ritiro. Ho chiesto a Marit se è un riferimento per lui Mark Cavendish, come per tanti velocisti in gruppo. E lui ha risposto certo, in questo giro siamo anche finiti per terra insieme una volta. Ovviamente abbiamo chiacchierato e poi io quando ero piccolo e guardavo i grandi giri in TV, come il Tour de France, quando Cavendish vinceva 5 o 6 etappe nello stesso grande giro, è stata un'ispirazione per me guardarlo. Ancora oggi è un esempio per me, ho grande rispetto quando siamo insieme nel gruppetto, e lui ovviamente è il leader anche nel gruppetto, ed è un onore correre insieme a lui nel suo ultimo Giro d'Italia. Poi gli ho chiesto, ma chi era il tuo idolo da ragazzino? E lui ha risposto, prima di tutti Tom Boonen, e poi proprio Mark Cavendish, che considero davvero come riferimento anche adesso che per me è un rivale in questo giro. E poi basta, gli ho fatto l'in bocca al lupo per le montagne che restavano questa mattina e che restano ancora oggi, che per i velocisti in questo giro non saranno sicuramente un affare semplice. Marit oggi è arrivato, non lo so quando, c'era, perché ho aperto la pagina sbagliata. E lui è arrivato in posizione 111 con gli altri velocisti. Insomma. Ultimo al traguardo invece? Ultimo oggi è stato Charlie Quarterman, il quarterback. Ah, sì. Il quarto di Uomo Charlie. Bene, comunque si dimostra che quando noi parliamo spesso con i corridori, questi arrivano nelle posizioni di rincalzo della classifica, oppure vincono le tappe. Questa fuga di oggi c'erano quasi tutti i corridori con cui abbiamo parlato in questo Giro d'Italia, anche perché siamo alla fine del giro, cominciamo ad averne fatte con tante tutti, di chiacchierate. Facile. Ce n'è uno con cui ho parlato velocemente stamattina, non è un'intervista questa, è che lui ci ha chiesto di fare, è un'inserzione, abbiamo un altro spot. Davide Formolo, devi vendere il biglietto dei Maroon 5. Vuoi andare nel concerto? No, non lo so, lo diciamo ai nostri ascoltatori. Va bene, dai. Adesso non ti chiedo il prezzo, ma ti devono scrivere su Twitter. Se volete andare a Parigi un paio di giorni, vai, io vado in bici. a spese di Formolo vanno a Parigi? Vai. Altri biglietti comprati? No, dai, al momento ce l'ho quelli, dai. Maroon 5 sono il tuo gruppo preferito? Certo, voilà, cioè, sono belli, dai. Sì, il tuo pezzo preferito? Ma un po' tutti, vediamo, dai. E poi altri concerti che vorresti andare a vedere quest'anno? Così magari li compri, poi devi venderli. I nostri ascoltatori sono interessati. Spice Girls ti consiglia. Spice Girls, sì. Davide Formolo, grande fan delle Spice Girls. Dai. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Dunque, se qualcuno dei nostri ascoltatori vuole comprare questi biglietti del concerto dei Maroon 5, Non ho capito, si rivolga a Davide Formolo. Davide Formolo. Non ha dato molti dettagli, non ho capito se paga lui questo weekend a Parigi, ma... Se paga lui. È interessante l'offerta. No, invece mi chiedevo se i Maroon 5 come si collocano nella tua costellazione di riferimenti musicali. Li conosci? Chi sono i Maroon 5? Li ho sentiti? Li hai sentiti? Cioè, persino i Maroon 5 sono troppo antiquati, mamma mia. Quelle tre canzoni le conosco, però ti svelo questo segreto. Io non sono mai stato a un concerto in vita mia. Di mai. Nessun tipo? Di nessun tipo. Quindi magari compro io i biglietti da Formula, non lo so. Mi hai raggelato il sangue nelle vene, Michele Pelacci. Dopo, se vuoi, ti faccio vedere il file. Io che sono un buon nerd e tengo traccia di tutti i concerti a cui sono andato nella mia vita, se vuoi ti faccio così, ti faccio vedere un attimo qualcosa e dai, ti prego. Cioè tu hai un Excel muoviti. In cui segni tutti quanti? Sì. Questa mi ricorda un po' Nibali quando disse a Roglic: vieni a casa e ti faccio vedere i trofei che ho vinto, rimanendo in tema di Giro d'Italia. È proprio... Pensavo ti ricordasse un attimo uno dei pesci dell'oroscopo di Asterio Tre Fortuna. No, i pesci no, ma Nibali sì, in questo caso. Beh, vai a un concerto, Michele Pelacci, comunque, muoviti, dai, adesso, cioè, continui a darmi delusioni quest'oggi, mannaggia, ti avevo perdonato, adesso mi hai veramente ferito nel profondo. Guardiamo oltre. Anzi, guardiamo indietro alla giornata di oggi, giornata che è iniziata in quel di Opitergium. Altrimenti detta Oderzo. Opitergium che viene da Piazza del Mercato, dove ho scoperto, grazie a due signori con cui ho chiacchierato alla partenza, che gli abitanti di Oderzo si chiamano Opitergini. Sì, bellissimo. È bellissimo. Sì, sono d'accordo. E siamo riusciti nello stesso giro a nominare gli Eporediesi e gli Opitergini. Credo che di meglio non potessimo fare. Ci sarebbe piaciuto parlarvi a lungo quasi tutta la puntata di Opitergini, ma non l'abbiamo fatto e il motivo è presto svelato da quello che abbiamo trovato all'arrivo e dalla nostra attitudine, perché il gelato è il nostro conforto, ci ripaga di ogni torto, il gelato ci consola e fa dolce la nostra gola. Assolutamente, abbiamo incontrato due gelatai diversi. Questa è una zona nota per i gelati, c'è una tradizione di gelatai emigranti molto spesso da questa valle, da tutta questa parte del Veneto, del Bellunese. Abbiamo incontrato, ho mangiato un gelato da 9:30 oggi, un sorbetto al pompelmo. Ho fatto uno strappo alla regola, non era pistacchio, era pompelmo, ma andava bene lo stesso. Ma sai perché si chiamava pompelmo? Lo facciamo dire direttamente dal certo. Gelataio che abbiamo incontrato, uno dei due, eccolo qua. Allora, il signor? Livio. Livio, che mi ha appena servito un gelato? Al pompelmo. Pompelmo, pelmo è quella montagna lì. Ah, c'è un gioco di parole. Sì, rosa, che è la tappa. E lei di dov'è? Leggo gelatieri Zoldano, questa è la Val di Zoldo e noi siamo di qua. Roma, e intanto mangio. Ex gelatieri. Perché ex? Perché avevamo gelateria all'estero, in Germania prima. Adesso siamo in pensione e dimostriamo come una volta si faceva il gelato. E come si faceva? Adesso raccontiamolo in allora, poche parole. Qui abbiamo un mantecatore che ha 120 anni, più o meno 130. Si deve preparare il raffreddamento, che è questo qua. Sono dei pezzetti di ghiaccio in pratica. Ghiaccio e sale, perché solo col ghiaccio non si fa il gelato, bisogna una temperatura più fredda. Il sale, allora ci sono quattro parti di ghiaccio e una parte di sale. Il sale, sciogliendo il ghiaccio, fa diminuire la temperatura. Arriviamo sui 25-28 gradi sotto zero. Poi si prepara la miscela, in questo caso è il pompelmo, spremuta di pompelmo con acqua e zucchero e basta, non c'è nient'altro. Si versa all'interno del mantecatore, poi si gira. La forza centrifuga fa attaccare alla parete il liquido e con questa spatola si stacca. E man mano che va avanti si stacca finché il sorbetto è pronto. Una volta che è pronto si mette in quella bacinella, sì, certo. Che una volta si usava per andare, la mettevano in un carretto e una volta fatto il gelato con quello giravano per la città e vendevano il gelato. E lei per quanti anni ha fatto questo lavoro? 35 anni più o meno. Signor Livio, grazie mille, le confermo che il gelato è buonissimo, quindi grazie mille. È un gelato naturale al 100%, più naturale di così. Poi questo è rosa. È un gelato artigianale, non quello che si vede artigiano perché lo tira su, però questo lo facciamo noi, facciamo la base, facciamo tutto noi, facciamo i coni, facciamo le cialde. Il gelato è rosa, chi avrà la maglia rosa oggi alla fine della tappa? Lei lo segue il ciclismo? Ma oggi? Ma io... Io penso che oggi rimanga quasi tutto con me. Ok, ma il suo preferito chi è? Beh, come si chiama l'italiano che è quarto? Caruso. Caruso, Caruso. Grazie, buon proseguimento. Prego, saluti. Tu sei bella da morire, io ti voglio qui con me giorno e notte. Ehi, ti non ti sei neanche sull'altro mondo! Sono nato qui in mezzo ai gelatieri, no? E io sono un gelataio, da 50 anni, 70, 60. E sono nato qui povero negli anni 43, quando c'era Hitler e Mussolini che si sbaravano l'un con l'altro sulla casa. Nella casa mia c'erano i partigiani e dopo sono andato su in Germania. Io ho portato la pace in Germania, ho 5 nipotini, mezzi tedeschi adesso, mezzi italiani, e così sono anche il nonno di un nipotino che si chiama Luca Toni, perché hanno preso il nome del calciatore Luca Toni. Io sono il nonno di Luca Toni! E come ti chiami? E io mi chiamo, cosa devo dire? Guarda, non lo so, guarda, guarda. Abbiamo il biglietto da visita. Guarda, io mi chiamo Ivo Slis, guarda qua. Ivo Slis. E sei Babbo Natale anche. Ma io Tutto. Ho fatto gli esami di Babbo Natale in Germania e con gli europei Babbo Natale devo rimanere originale così. I barocchieri niente più soldi. Io vado sulle discoteche e vado a ballare il techno. Sono un techno. Senti, ma mi racconti di questa maglietta che hai addosso? Gelatieri italiani. Allora, Ace Tour. Eccolo qua il mio amico di Longarone. Oh! No! Questo sa chi è? Chi è? Questo qui è il presidente della provincia di Belluno. Insieme a Babbo Natale. Dai, fammi. E io ho 3 biciclette a corsa, volevo diventare un corridore, ma soldi. E allora ho dovuto fare questa storia. Questo è il mio carrettino, ho visto sulla cartolina, no? Ma il tuo gelato preferito qual è? Ma il mio gelato, io sono arrivato a essere un gelatiere quando vendevo gelati, ghiaccioli, pinguini, banane a Lodi. E facevo 60-70 km al giorno col calettino e un panino mi davano, come, era un panino, calettino come quello che ho qui, e facevo scambio, non di soldi, un uovo valeva 20 lire, 10 lire o 30 lire, dava su e giù, no? E io davo il gelato con la spatoletta, non le palline, non erano le palline, o un ghiacciolo, un pinguino, quello che poteva valere. Questa qui l'abbiamo fatta con la nostra unione gelatieri qui di Isoldo. Sì. Unitais. Avete fatto la maglia? Unitais. Gelatieri italiani di Isoldo, perché la maggior parte era qui. No. Aveva un bavero color zafferano e la massina color ciclamino. Veniva Ivo, mi chiamo Ivo, no? Ah, io. Da Lodi a Milano per darle un bel gelatino. Io comunque non mi aspettavo che in una località di così alta montagna fosse peculiare il gelato. Non so perché il gelato lo riconduco sempre a... No, invece lo sai che... Ai lungomare. Esempio, in Islanda il gelato, anche in inverno, è molto molto diffuso. Ma lo fanno? Sì, cioè, producono. È un paese di gelatari. Nostro, ma è molto amato anche d'inverno. Sono stati degli emigranti italiani comunque anche in quel caso... Non lo so di preciso, ma a un certo punto credo ci sia stato qualcuno. Perché questa cosa mi ricorda sempre la cosa che devo raccontare ogni volta. Probabilmente l'ho fatta in ogni podcast, di quella volta che sono andato in Giappone e c'era una gelateria che si voleva chiamare gelateria in italiano, solo che avevano scritto gerateria. Come un po' come la nostra ascoltatrice, che anziché scrivere Geronimo ha scritto... Come ha scritto? La nostra ascoltatrice giapponese che ha twittato... Geromino. Domani non si va in terra di gelati, ma si va in terra di un sacco di altre storie e anche di altre delizie. E quando si parla di delizie, noi ci facciamo spiegare il percorso di giornata dal delizioso esploratore di delizie, Alessandro De Marchi. Partenza da Longarone e... siete vicino al Vajont, potreste andare a dare un'occhiata a quel posto che è, insomma, qualcosa di importante. E poi vi infilate verso le montagne. Quando arrivate, ecco, la prima modifica che vi suggerirei è ad Araba. Ad Araba, fate un salto su in cima al Pordoi, all'hotel Savoia, perché vi accoglieranno con grandi onori. Cioè, se uno dice sono amico di Alessandro De Marchi, lì andate sicuro, avete una birretta, un pezzo di strudel assicurato. E poi potete fare, riprendere il percorso e fare scendere appunto a Corvara, e lì siete nel mezzo delle Dolomiti, è uno spasso, e il Falzarego anche quello è bello, però sopra non ho grandi conoscenze. Il Giau, poi prendetevi un po' di tempo per il Giau, ecco, perché in cima è uno spettacolo. Adesso non so quanta neve ci sia, ma sarà comunque una figata. Forse è un po' più trafficato del solito, ma merita lo stesso. E a Cortina il caffè vi costa troppo. Andate dritti. Andate dritti e andate su alle Tre Cime e fermatevi a Misurina. Il lago è anche quello, è uno splendore. Io ci andavo caro bambino a camminare. Facciamo le camminate su di là. E poi le Tre Cime, insomma, non serve che ve lo dica io. Già da bambino eri su ste strade. Sì, andavo, insomma, con altre. Ma ci sono i tuoi tifosi, secondo con te? Con altre. Saranno più a Lussari. Sì, saranno più a Lussari. Stanno organizzando Lussari perché sarà una giornata epocale per loro. E allora, in attesa adesso di quello che sarà nella cronoscalata di sabato, con, come dire, anche l'introduzione e le aspettative che ci fa crescere De Marchi, facciamo un passo alla volta e pensiamo alla tappa di domani, che è la tappa regina. Tappone, la tappa regina, come si dice in questo caso. Prego Michele, raccontaci un po' com'è fatta. 183 chilometri, oltre 5.000 metri di dislivello, sono tutte, o parte, tutto è impossibile, buona parte delle salite dolomitiche più belle, famose, note per la loro durezza e difficoltà. Si comincia da Longarone, per il 50° del Vajont, del disastro del Vajont. Passo Campolongo è la prima, e poi solo prima categoria, Passo Valparola, il Passo Giau, temuto e temibile, ci porta a Cortina d'Ampezzo, dove il Passo Tre Croci è qualcosa di cui i corridori devono cominciare a preoccuparsi. Poi si scende, si risale fino al lago di Misurina, riferimento equestre, perché il lago di Misurina d'inverno ghiaccia e si gioca sopra a polo. Quindi uno spunto importante per Zana anche domani. Esatto, forse. Perfetto, okay. Sarebbe bello. Dopo di questo si sale per un piccolo zampellotto, in realtà pendenza anche questo 18%, fino a un altro lago, un altro laghetto, si supera un casello per il pedaggio e lì cominciano le pendenze più arcigne, circa 4 km. Ma devono pagarlo il pedaggio? No, temo di no. Temo, penso. Però tu ti sei segnato questa cosa, che c'è un casello per il pedaggio. Sì, okay. È molto divertente secondo me questa cosa. Non ne dubito. Torniamo a noi. Ultimi 3-4 km sono tutti al 12-13%, un finale durissimo, chi non ha le gambe domani è nei guai. Ma secondo te la tappa di domani si deciderà verso le Tre Cime di Lavaredo, oppure sul Giaul qualcuno farà dei watt? Bella questa, non male. Sai che peraltro le cime attorno al Giaul si chiamano Nuvolau e Averau. Questa cosa mi fa ridere. Sì, ci sono dei nomi molto belli lassù, ma direi di procedere al pronostico, perché domani è forse il pronostico più importante di tutti. Chi vince e soprattutto chi fa la corsa, chi assume la responsabilità di attaccare domani la maglia rosa, o sarà la maglia rosa viceversa a farlo? Mi piace pensare che domani sarà proprio la maglia rosa, per continuare il gioco, no, di 2 più 1 che si stacca, a staccarsi appunto, quindi la maglia rosa perderà un po' di terreno e vincerà Primoz Roglic. Interessante, ma dove succede tutto questo? Sull'ultima salita o immagini movimento già prima? Sull'ultima salita, ma Roglic riuscirà a mettere quel distacco e prenderà quegli abboni che gli consentiranno di andare in maglia rosa. Ah, quindi tappa in maglia per Roglic domani. Interessante pronostico. Invece l'altro, prima che io faccia il mio. Allora, per la maglia non ne ho idea, non ne ho la più pallida idea, posso dire che non c'ho proprio idea. Cioè potrei fare una sparata, ma non lo so. Sulla vittoria di tappa invece io non posso non crederci. Lo dico in francese, sul Mont la victoire est belle. Ah. Domani vince Thibaut Pinot. Sarei felicissimo. Faccio un po' fatica a immaginarlo di nuovo al livello più alto dopo la tappa di oggi, ma ovviamente sarei felice. Purtroppo il fatto che i primi tre siano così ravvicinati tra loro mi fa escludere che possa succedere qualcosa di interessante molto prima dell'ultima salita, tipo sul Jau. Però potrebbe essere l'occasione per chi è un po' più indietro di muoversi. Mi immagino un Dunbar o un Caruso, se avranno voglia di provare qualcosa che sia di più del difendere il quarto e quinto posto. Magari per Dunbar il quarto posto è già un grande risultato. Per Caruso potrebbe essere l'occasione di provare un'azione da lontano, tanto per lui fare quinto, fare settimo, ottavo non dovrebbe cambiare molto. Però vedremo, ovviamente dipende anche da come starà domani. Non so, potrebbe esserci la crisi di uno dei tre, ma non so davvero dire chi potrebbe andare in crisi domani. Faccio una cosa che non ho mai fatto, il secondo pronostico consecutivo uguale, dico ancora Geraint Thomas per la tappa di domani. I nostri pronostici li abbiamo fatti, la registrazione della puntata l'abbiamo fatta, la tappa l'abbiamo vista, il fango l'abbiamo preso, il sole anche abbiamo preso, il gelato l'abbiamo preso, il buffet l'abbiamo mangiato. Sulla cena non mi sbilancerei a questo punto. Quest'ora... Per cui direi chiudiamo, anche perché qua se ne stanno via tutti, restiamo solo noi, tra un po' ci chiudono in questa capiotto. Serra. E c'è un signore che si aggira intorno da Mosca, come me, perché deve prendere quegli strumenti ed è troppo gentile e non vuole disturbarci, per cui... Ce ne andiamo da soli, lasciamolo andare a cena, andiamo verso la nostra cena, ci sentiamo domani per la penultima puntata di Geronimo. Wow, no, che è penultima? Domani è la terz'ultima. E come vedi, io ho perso completamente il senso del tempo, l'ho persa alla seconda. Volevo dirla a Pescara questa battuta della penultima puntata di Geronimo, meno male che me la sono tenuta, prima o poi si avvererà anche questa cosa. A domani. Vado a lavarmi, ciao. Ciao.